la parola adesso alla dottoressa Lucia Longo. La dottoressa Lucia Longo è ricercatrice presso l'Università degli Studi di Padova e ha rivolto i suoi interessi in prevalenza alle relazioni storico-artistiche tra l'Italia e la Germania, con particolare riguardo al periodo barocco. È stata borsista della von Humboldt Stiftung, ha lavorato sull'architetto trentino Antonio Petrini, attivo in Baviera, sugli affreschi del Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme, su progetti relativi all'edificio di Santa Chiara conservati nell'archivio militare di Monaco di Baviera. Alla dottoressa Longo la parola. Ringrazio innanzitutto questo comitato per avermi coinvolto. Devo un po' abituarmi a queste. Ringrazio anzitutto questo comitato per avermi coinvolto in una ricerca tanto stimolante che interessa tutto l'ambiente storico-culturale trentino e tutti quelli che partecipano a questo lavoro comune con entusiasmo, passione, competenza. Io sono qui per offrire una piccola tessera in questo grande mosaico di storici. È una piccola tessera che dai contorni talora non ben delineati, anzi, forse più che una tessera è un collante, forse o addirittura è tutto il contrario, perché posso offrire a voi, voglio offrire a voi una serie di interrogativi e di problemi che in apparenza potrebbero anche disorientare, mentre invece in realtà sono un invito a nuove ricerche e scoperte. Si sente bene la voce o è troppo vicina alla bocca? Va tutto bene? Cominciamo ora col vedere insieme qualche immagine storica, una serie di decorazioni pittoriche, per puntualizzare poi alcuni loro aspetti a nostro avviso di particolare importanza. Si tratta degli affreschi che ornano il loggiato di del cortile di Castelvecchio, che si distribuiscono sulle superfici murarie con ritmo vivace e regolare. È a fuoco o io non mi rendo conto da qui? Ghirlande e pendenti, densi di fiori e di frutta, con nastri svolazzanti e amorini ignudi, intenti ora a giocare, ecco che due putti che si danno dei fiori, che si ora a suonare strumenti musicali. In basso, nei pennacchi tra le arcate, compaiono animali quasi sempre volatili, trampolieri ed altro, non ben definibili. Si vedono? Qui c'è un animale con le penne allargate. Nel 1475 ebbe inizio il rinnovamento della parte più antica del castello, sotto il vescovo Johannes Hinderbach. Gli artisti furono individuati nella famiglia dei pittori Sacchetto di Verona, facendo riferimento soprattutto a Bartolomeo Sacchetto, figlio di Cristoforo, che nel 1469, si recava a Trento in arrivo da Calliano, e facendo riferimento alla probabile collaborazione dei figli Cristoforo e Giacomo, documentati a Trento tra il 1478 e il 1480. Sappiamo che Bartolomeo nel 1477 ricevette tre pagamenti pro parte picturarum murorum palazzi e figurarum picturarum in palazzo. Ciò fa presupporre che sia da riferirsi al 77, probabile. La decorazione pittorica datata in precedenza da Niccolò Rasmo nell'84, negli anni 75-76, quando cioè iniziava il rinnovamento architettonico del palazzo. Ai sacchetto, ecco un altro animale, un altro particolare, ai sacchetto furono attribuiti pure gli affreschi della facciata di Casa Balduini, proprietà di Arcangelo Balduini, archiatra, medico del vescovo Giovanni Inderbach e dello stesso imperatore Federico III, da cui venne insignito con diploma di nobiltà nel 1478. Questa è una raffigurazione degli anni dopo il 1941, dopo il restauro. Un ricco apparato di festoni, di ghirlande, di alloro, di frutta e di fiori, nonché mazzi pendenti legati ai nastri svolazzanti, si dispiega su tutta la parete con la preziosità di pizzi raffinati, quale addobbo decorativo e celebrativo, ideato per feste solenni e trionfi, per l'ingresso di personaggi importanti a Trento e di altri prelati a Trento. Il gusto umanistico antiquario che caratterizza le pagine dei codici del vescovo Inderbach si ritrova nella decorazione della sua residenza e nella decorazione della dimora del suo medico. Ci sono delle somiglianze di ornati e di gerali, ma tutto questo andrebbe più approfondito. I motivi ornamentali in genere sono attinti nel repertorio figurativo proto-rinascimentale padovano. L'uso della ghirlanda si diffonde ovunque nel Veneto, basti pensare all'altare di Donatello al Santo, alla cappella Ovetari degli Eremitani. L'addobbo figurato con festoni e ghirlande risale di per sé alla plastica funeraria romana, Cozzi nel 1988. Il singolo motivo ricompare però nel monumento funebre dedicato ad un docente padovano, Antonio Rosselli, un docente dell'Indebrat. È l'opera di Pietro Lombardo, un ben noto artista rinascimentale. Gli ornati della facciata, Casa Balduini, sono molto semplici. Una ghirlanda, al cui centro si apre un fiore, si aprono i petali di un fiore, da cui si dipartono, sia a destra che a sinistra, altre ghirlande e in mezzo c'è un pendente. Sono annodati da nastri svolazzanti rossi, che disegnano capricciose volute. Risaltano sull'intonaco bianco i toni verdi, i gialli oro e il disegno contornato di nero. L'affresco ha una funzione, vediamo cos'è la prossima. L'affresco ha una funzione puramente decorativa, ornamentale, non strutturale, non funzionale. Riveste l'intera facciata con la preziosità del tessuto, di finte stoffe, di eleganti carte da parati. Ben diverse le pitture di Castelvecchio, nonostante la presenza di motivi affini. Ghirlande e pendenti vegetali paiono avere una logica funzionale, sembrano disegnati con logica. I festoni e i pendenti, densi di frutta e di fiori, corposi, sono agganciati con lazzi, con nastre, corde. Per avere una resa più plastica e realistica. Si avverte quasi il peso delle composizioni, il peso degli elementi floreali e vegetali. Le ghirlande tuttavia formano una base d'appoggio per i putti, una base di i putti sono ora intenti a giocare, ora suonano strumenti musicali, ora sono a cavallo delle ghirlande. Ecco qui un putto che gioca con la girandola, cioè sono seduti sulle ghirlande a cavallo di essi. La ghirlanda diventa allora, all'improvviso, come una frangia, un pregio, è un elemento decorativo. Osservando attentamente gli animali dipinti sotto i pendenti, si nota che sono quasi sempre volatili, trampolieri, non facili da identificare. Identificabili forse per alcune parti del corpo. Vediamo. Come mai non va più avanti? Scusate. Scusate. Ecco. Identificabili forse per alcune parti del corpo, le zampe, il becco per esempio, ma visti nell'insieme sembrano differenziarsi dagli animali veri, dagli animali autentici, e appartenere invece a un mondo della fantasia. Fa eccezione la scimmia, che rincorre il pavone e che sembra voglia contraddire ciò che abbiamo appena detto. Per quanto riguarda gli animali affrescati a Castelvecchio, ho difficoltà a condividere l'ipotesi di un possibile nesso con la favola medievale del Reineke Fuchs, tramandato nella storiografia locale a partire dal Gerola. La storia della volpe di nome Reineke narra di animali come il lupo, l'orso, il gatto, che si radunano alla corte del loro re, il leone, per esporre lamentele sui danni provocati da Reineke e chiedere quindi giustizia. La volpe, che temeva le accuse dei suoi nemici, si guardò bene dal presentarsi alla corte. Reineke, pur condannata all'impiccagione, si salva infine con giochi d'astuzia e strategia, imbroglia perfino il re, il leone, e gli fa pervenire a corte, attraverso l'amico Ariete, la testa di un coniglio sul piatto. La favola termina con la volpe che, soccorsa dalla stessa regina, riesce a salvarsi del tutto e ad avere la meglio sugli altri animali. È chiaro l'intento moraleggiante della favola, ripresa e rielaborata da Goethe nel 1794 come allusione al comportamento dei sovrani di corte dell'epoca. Nessuno di questi animali è illustrato nelle decorazioni di Castelvecchio. Non ci pare neanche che gli amorini siano in un qualche modo legati alla favola del Reineke Fuchs. Nelle decorazioni pittoriche di Castelvecchio si assiste in fondo a un'oscillazione tra realtà e irrealtà, tra funzione logica e ornamentale, che ci offre una deliziosa altalena tra prospettive ed esperienze diverse. Lacci ed anelli che paiono veri, quelli che abbiamo visto, fissano le ghirlande e i pendenti, secondo un disegno logico, mentre le stesse ghirlande si fanno irreali per la presenza degli amorini che vi camminano sopra o li cavalcano con il loro peso. A Castelvecchio si realizza, lo ripetiamo, un addobbo decorativo reale, realistico, nonostante la funzione dei putti. Sulla facciata di Casa Balduini, l'addobbo decorativo ha un effetto puramente ornamentale, di tessuto, di paramento, insomma. Indubbia è comunque l'analogia stilistica tra le decorazioni di Castelvecchio e quelle di Casa Balduini, rilevata giustamente dalla critica. È probabile che il progetto sia dovuto ad un unico autore, forse il Bartolomeo Sacchetto di cui si disse, e l'esecuzione pittorica si è dovuta invece a mani diverse, forse i figli. Qui si è voluto soffermarsi sull'ornamento vegetale, su uno dei molteplici aspetti di brani pittorici, peraltro complessi. Nella valutazione complessiva si potrebbe ricercare l'esistenza di modelli, disegni, xilografie ferraresi o lombarde, per esempio. Diverse appaiono invece le decorazioni pittoriche di Castelpietra, nella Sala Maggiore o Sala del Giudizio, una preziosa testimonianza tardo-medievale. Nella critica, Rasmo 37-82, si tramanda che Bartolomeo Sacchetto, veronese, nell'anno 1469 era in arrivo da Trento a Calviano, l'abbiamo già detto. Di qui la supposizione che gli sia stato impegnato nelle pitture che decorano la sala di Castelpietra. Non ci sono pervenuti altri documenti per suffragare tale ipotesi, oppure approfondire le nostre conoscenze. A Bartolomeo Sacchetto, alla sua bottega, ai figli Giacomo e Cristoforo, suoi collaboratori, furono attribuiti, come si disse, gli affreschi di Castelvecchio e di Casa Balduini. Ma le affinità stilistiche in essi riscontrate non si ritrovano a Castelpietra. L'eterogeneità e la struttura degli affreschi che decorano la Sala Maggiore di Castelpietra è di grande interesse. La sala presenta dei problemi di carattere pittorico, stilistico, iconografico, rimasti tuttora aperti. Va detto anzitutto che il deperimento degli affreschi, scoperto solo nel 26, rende difficile una dettagliata, sicura lettura, e alcune vecchie diapositive qui proiettate aiutano ben poco a guidare l'osservatore. Gran parte della decorazione che rivestiva le pareti da cima a fondo andò perduta. La sala è ornata in alto da un fregio fogliame, medaglioni con stemmi, sotto, entro scomparti rettangolari di dimensioni diverse, si raffigurano scene di carattere profano, in cui prevale l'apporto nordico. La decorazione ornamentale si differenzia notevolmente da quelle già viste a Trento. Ora si aprono fioroni fantastici, a ventaglio, nella scena della lotta oppure del ballo, non lo sappiamo esattamente, con l'orso. Ora vi sono stoffe arabescate che fanno da sfondo al giovane suonatore di liuto nello sguancio di una finestra. Diversi, dunque, lo ripetiamo, i motivi ornamentali. Assai complesso il racconto o i racconti storici, iconografici. Nella lunetta della loggia si raffigura il giudizio di Salomone. Il re, con lunghi capelli, Il re, con lunghi capelli biondi e del turbante, è assiso in trono. Ai suoi piedi giace il bambino morto, disteso. Alla sua sinistra sta inginocchiata la vera madre che implora grazia, rinunciando il figlio, mentre il carnefice è pronto ad abbassare la spada sul piccolo che è in braccio al vecchio di sinistra, a un vecchio dell'alto turbante. Alla sua destra la falsa madre che assiste imperterrita alla finta esecuzione. Ecco, questo potrebbe essere un simbolo della... simbolo della prudenza, della sapienza, ma il tutto naturalmente va relazionato con le altre scene. Molto bello è il particolare della vera madre, abbigliata con vesti della Burgundia, nelle linee, nei tratti dolci del viso, nella delicatezza della policromia, balza all'occhio e subito la mano di un pittore diverso da quello delle altre scene. Quella dell'orso, per esempio, che abbiamo già visto. Elegante è la figura del giovane biondo, dai capelli inanellati, che è stato identificato, sempre con un punto di domanda, come Orlando. Si passa poi alla scena che si presuppone rappresenti la regina di Saba con Salomone, la regina di Saba che pone i suoi indovinelli a Salomone, la sua sapienza, e poi alla figura femminile portatrice di scudi o di stemmi, questa qui alla mia sinistra, a quel riquadro, e alla scena che ricorda la leggenda di Aristotele e Campaspe. Non so se si può vedere bene, comunque Aristotele e Campaspe è l'unica diapositiva che ho. Una giovane donna con veste rossa damascata a fiorami bianchi, con un'alta cuffia, siede sulla schiena di un vecchio filosofo che cammina a carponi, munita di frustino per fustigare l'improvvisato cavallo. È la prova d'amore richiesta dalla donna al saggio che cadde vittima della sua seduzione. Giovani, dietro il muricciolo, si affacciano a guardare la scena così poco edificante. E nella raffigurazione, forse non si vede, sembra che Aristotele porti sul capo una corona, e ciò metterebbe subito in dubbio l'identificazione dei due personaggi. In ogni modo è chiaro che si tratta di una scena che allude al potere della donna sull'uomo e quindi all'allegoria del prevalere dell'irrazionalità sulla razionalità, il prevalere della passione sulla razionalità, e potrebbe contrapporsi alla scena di Salomone come stoltizia, prudenza, sapienza da una parte e stoltizia dall'altra, ma sono solo supposizioni. Ecco, una scena che allude al potere della donna sull'uomo, parimenti a quella in cui si raffigura un vecchio in gabbia, che alza la mano per parlare. Il contenuto del suo discorso sta probabilmente scritto nel cartiglio che gira attorno alla gabbia, a caratteri gotici di difficile lettura. Di fronte a lui siede una donna con alle spalle un gattino che gioca. Ella si esprime probabilmente con le parole scritte in gotico tedesco nel cartiglio che le svolazza intorno. Chissà qual è il dialogo finora rimasto celato nelle scritture dei cartigli. Sono temi quanto mai suggestivi, leggende erotiche uscite dai repertori dell'antichità classica, come Aristotele e Campaspe, Salomone e la regina di Saba, oppure dall'epopea cavalleresca dell'epoca medievale, Orlando, ad esempio, dall'allegoria del tempo, come la caccia al cervo, ad esempio. Rappresentazioni tutte importanti per la storia dell'iconografia medievale, che simbolizzano in fondo la potenza dell'amore sugli uomini. La lettura iconografica e pittorica di tali scene e decorazioni è assai difficile, anche per il grave stato di deperimento degli affreschi, lo ripeto. La scena dell'uomo in gabbia, per esempio, presenta scritte quasi indecifrabili e varrebbe la pena di fare ulteriori ricerche, ulteriori tentativi di lettura al fine di rendere esplicito il contenuto della raffigurazione. L'interpretazione dei temi iconografici ad opera del Morassi del 1934 costituisce un valido, ottimo contributo per il momento. Ci si augura, tuttavia, che nuovi studi portino ad ulteriori chiarimenti, valutando in essi le relazioni esistenti tra i vari soggetti di repertori opposti e quindi i nuovi significati allegorici. Senza dubbio furono attivi a Castelpietra più artisti, almeno due, se pensiamo alle scene col giudizio di Salomone o a quelle con della lotta o del ballo con l'orso. Non abbiamo dati sufficienti per affermare che tali artisti siano veramente appartenuti alla famiglia dei Sacchetto. Anche a tal proposito si attendono nuovi dati e contributi. E passiamo ora all'arte sacra, ad alcuni esempi dell'epoca. Le opere maggiori realizzate a Trento in quell'epoca sono spesso di impronta ancora nordica, come il martirio di San Simonino che qui vediamo, su cui già si soffermò ieri con molta pertinenza la collega Laura Dal Pra. È un'opera pregevole, una pregevole opera di gusto tardo gotico, databile verso il 1480-90, di chiara derivazione nordica. L'autore ha insistito nella caratterizzazione dei carnefici, di cui ha voluto naturalmente rimarcare e evidenziare l'infamia. Forse per la rassegnazione con cui è rappresentato il bimbo, già preso evidentemente dalla gloria celeste, la scena non presenta tuttavia quei caratteri angosciosi, almeno in senso relativo, che ci si potrebbe attendere. Mentre l'artista dimostra un notevole senso della composizione, quella larghezza di ritmi, chiarezza di gesti e di espressioni che distinguono la migliore scultura tedesca di quel periodo. L'opera fu recentemente attribuita a Michele Tanner, Thorax o Tonar, che si suppone sia originario di Dithmoning, vicino Salisburgo, e che risulta iscritto alla confraternita alemanna di San Pietro nel 1467 e al servizio del vescovo di Trento. Il fatto però che non ci siano pervenute opere sicure dell'artista, né scultoriche né pittoriche, impedisce un vero raffronto stilistico, mentre l'attribuzione resta un'ipotesi da dimostrare. A questo punto vorrei segnalare la presenza a quell'epoca, faccio una breve parentesi, di un altro Tanner, Tanna, Toner o Tonar, e precisamente Leonardo, uno scultore oriundo di Landshut, quindi non di Freising, e domiciliato in Friuli per vari anni, attivo dal 1450 in Friuli a partire dal 1464. Abita prima a Udine, 65, poi a Cividale, tra l'82 e il 500. È documentato un suo compianto sul Cristo morto, del resto molto bello, un Vesperbild, una scultura lignea di particolare grazia, creata per la chiesa di Sant'Antonio Abate a San Daniele del Friuli. Nel 1487-88 Magister Leonardus Tanner fecit. Dal 1499 al 1535 opera pure il figlio Giampaolo Tanner, pittore popolare per eccellenza in Friuli, documentato dal 99 al 1535. Due Tanner, padre e figlio, oriundi di Landshut e non di Dithmoning, risultano attivi quindi in Friuli. Non ci sono noti legami di parentela, mi pare, con quel Michele Tanner operante a Trento, di cui sappiamo solamente che nel 67 fu investito di un orto nel capitolo del Duomo, Weber 27, poi ripreso dalla storia d'Erasmo successivamente. Fatto forse questo da mettere in relazione con i servigi resi alla corte vescovile, ma non sappiamo come. Sempre Michele Tanner fu assegnata recentemente la tavola votiva Hinderbach, proveniente dal Duomo di Trento e ora al Museo Diocesano. A suo tempo, riferita dalla critica locale, a Girolamo da Trento, e qui per Michele Tanner vale il discorso che si è già fatto, non abbiamo confronti da fare. Certamente non è facile dare un nome all'autore di questa tavola, su cui sono sorte congetture e considerazioni contrastanti, senza però giungere all'individuazione precisa dell'artista. Si è parlato di Girolamo da Bamberga, detto anche da Trento, cui si attribuiscono più opere eterogenee all'inizio del secolo. Vediamo Berziner, Fogolari, Rigler, Cerola, Weber, Emert. Il Gerola distingue addirittura distingue due Gerolami, un autore della tavola di Dardine, che qui non abbiamo, dell'Ecceomo, che i puntini probabilmente conoscono, al buon consiglio, e degli affreschi di Porta Aquila Trento, e poi l'autore della tavola inderbacchiana e di quella votiva del canonico Northaft. C'è lo stesso autore. Stando a Gerola, costui sarebbe stato, corrisponde a quegli Hieronymus Pictus ucciso nel 1514 tra Volta e Goito nel Mantovano. Morassi, 20 anni dopo, nel 1934, distingue tre personalità omonime, operanti a Trento tra la fine del 400 e la fine del 500. L'autore della tavola di Dardine, con la pala della Madonna tra San Virgilio e San Marcello, e lo stesso autore ha fatto anche la tavola, si deve allo stesso autore, la tavola del canonico di Northaft, queste mi sembrano molto diverse, e allo stesso autore attribuisce anche gli affreschi di Porta Aquila. E poi distingue l'autore dell'Ecceomo, che qui non abbiamo, cui attribuisce pure due tavolette rappresentanti scene del martirio e conservate al Museo Poldi Pezzoli di Milano. Il Gerolamo ucciso tra Volta e Goito è un'altra persona. Rasmo nell'82, prima nel 52 poi nell'82, assegna l'Ecceomo a Meyer von Landshut, che gli dice originario di Freising, e assegna la tavola Inderbach a Michele Tanner. Per quest'ultimo vale quanto già detto, e per quanto riguarda il pittore Meyer, purtroppo non ho la diapositiva, anticipiamo, e anche è più tardo del 1502, anche se la data è apocrifa comunque. Per quanto riguarda il pittore Meyer, vogliamo anticipare alcune notizie che sono in corso di stampa nello studio di un collega tedesco, Friedrich Koble. Il pittore di Landshut è anzitutto oriundo di quella città, Landshut, e non di Freising, ove pure ha lavorato. Si chiama Hans Meyer, per la precisione, e pare che la sua pittura non presenti alcune o poche affinità con l'Ecceomo di Trento e con le tavolette raffiguranti il scene del martirio conservate nel Museo Poldi Pezzoli di Milano, attribuiteli dal Morassi nella critica successiva. Quanto detto, se si fa fede naturalmente agli studi recenti che saranno resi noti non appena sarà il momento. Complessa resta dunque un'assegnazione sicura della tavola Hinderbach ad un autore, e la critica è sempre discordante. Il dipinto, largo 1,87 m, alto 1,63 m, raffigura la Madonna col bambino al centro, assisa su un trono gotico che è ornato da figurine con angeli musicanti. Ai lati, alla sua destra, si notano i Santi Girolamo e Giovanni Battista, San Girolamo nel lato di togliere una spina dal leone, e nel secondo è San Giovanni Battista, mentre benedice Gesù e regge in mano un filatterio con un'iscrizione latina in caratteri lapidari, Ecceomus Dei. A sinistra i Santi Pietro e Paolo con i rispettivi attributi, e ai loro piedi, inginocchiato e orante, il vescovo Giovanni Hinderbach, identificato dallo stemma in basso, assistito dal suo cappellano che gli regge il pastorale. Ambedue sono rappresentati con vivacità e immediatezza, la vivacità e l'immediatezza tipica dei ritratti. Sappiamo che dopo la morte del vescovo Hinderbach, sotto il suo successore, il cappellano Giovanni detto dalla Vena, allora abitante a Cavalese in Val di Fiemme, in data 22/10/1998, fu imprigionato e sottoposto alla tortura sotto l'accusa di malversazioni o comunque di illecito arricchimento. Da ciò si deduce che la tavola Hindenbachiana, che vanta le figure dell'Hindenbach e del suo cappellano, poteva essere stata dipinta solamente quando il vescovo era ancora in vita, e cioè tra il 1465 e il 1486, io direi 1475 circa, mezzo. Il pittore, forse Girolamo da Bamberga o da Trento, la fantomatica figura di cui sappiamo troppo poco, si rivela legato alla rigida tradizione gotica, ama le architetture ornamentali, il trono a schiene d'asino, fiorite di accademiche trinature e trafori, ama i panneggi ampi, gonfi, ingorgati, dal colore pesante e sordo. Non riesce a trarre dalle figure che una ricorrente espressione di atono devozionalismo. Quando esce dallo schema tipologico rischia il macchiettismo nella figura estremamente destra. Vedesi San Paolo. La tavola è ad ogni modo importante come testo della cultura pittorica trentina tardo quattrocentesca, ancora legata all'area tedesca, ai suoi ultimi atti prima del rinnovamento clesiano. Nel generico pietismo dei personaggi sembra di poter cogliere l'imbarazzo culturale di un mondo che di lì a poco doveva essere travolto dalla rivoluzionaria incisività del Rinascimento. Nel dipinto di Trento appare verosimile un'affinità e una derivazione stilistica, quindi, già evidenziata dallo stesso Erasmo, 52-82 sempre, con l'ambiente pittorico salisburghese di Konrad Leibe. Si deve fare attenzione però, si notino le piegature dei panneggi, ma soprattutto le figure scarne, i volti allungati, i nasi lunghi e penduli, gli occhi cadenti, le espressioni torbide e compunte. Per la tavola Hindenbachiana, tuttavia, e così per gli altri dipinti assegnati ai vari Girolamo, restano ancora dei nodi da sciogliere. Ciò non ci deve comunque disorientare, perché siamo convinti che l'autentica conoscenza proceda sempre di più, non solo attraverso la ricerca di elementi comuni e quindi delle somiglianze stilistiche e formali, ma anche e soprattutto per l'identificazione delle differenze significative. Mi dispiace, spero di non essere stata troppo lunga, ma ho finito. Dopo i dati duri, ma sicurissimi, di padre Ghetta, non poteva mancare un capitolo sulla committenza pittorica di Hindenbach come quello offerto dalla dottoressa Longo. Oggi pomeriggio siamo passati dai rapporti col principe a tutti i dati offerti dal Ghetta all'attività artistica, architettonica e pittorica alla corte di Hindenbach.